GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La legge di stabilità dà oltre 6 miliardi e mezzo di euro, di cui la metà destinati alla spesa sanitaria, occuperà da domani i lavori del Consiglio regionale. L'approvazione è prevista per venerdì, quando la conferenza dei capigruppo prevede una seduta ad oltranza per arrivare al varo del documento definitivo. La Orion, azienda triestina leader nella produzione di valvole industriali, ha progettato e costruito la più grande valvola per il settore petrolifero. Giovedì la certificazione al Guinness dei primati. Pordenone ha approvato il progetto di fattibilità per la riqualificazione di Piazza del Popolo, intervento finanziato dalla Regione con 2 milioni e mezzo di euro. Il tavolo per la pace del Friuli Venezia Giulia ha presentato un esposto alla procura di Pordenone sulla presunta presenza illegale di armi nucleari nella base USAF di Aviano. A Trieste la stele mariana di Piazza Garibaldi è coperta di fiori, mentre il vescovo Trevisi sta presiedendo all'Angelus dell'Infiorata. La chiesa udinese celebrerà nel pomeriggio i 25 anni dell'ordinazione episcopale di Monsignor Andrea Bruno Mazzocato. Messa per i fedeli italiani, sloveni e austriaci nel santuario del Lussari, mentre gli sciatori affrontano le piste della parte alta del comprensorio. Buongiorno da Maria Spezia e Nada Cioc. Per la legge di stabilità regionale la settimana entrante sarà cruciale. Dopo aver illustrato il documento che vale oltre 6 miliardi e mezzo alle commissioni consiliari, domani inizia la discussione in aula con la deposizione degli emendamenti. La conferenza dei capigruppo conta di approvare la manovra venerdì con una seduta a oltranza. Sentiamo i dettagli. Oltre 6 miliardi e mezzo di risorse, 274 milioni in più rispetto al 2025, con oltre 3 miliardi e 700 milioni destinati alla spesa sanitaria. È il contenuto economico della legge di stabilità 2026. Oltre alla sanità, un'altra posta chiave è quella su infrastrutture e territorio, che vale quasi 643 milioni. Ci sono poi 226 milioni sul capitolo lavoro, formazione, istruzione e famiglia, 193 su ambiente, energia e sviluppo sostenibile, 174,5 su attività produttive e turismo, 137 per il patrimonio e il demanio, 115 per le risorse agricole, forestali e ittiche e 108 per la cultura e per lo sport. Dal centrodestra, il capogruppo leghista Callegaris parla di una manovra finanziaria che ha il proprio baricentro politico nelle persone, nelle famiglie, nei territori, nel lavoro e nelle imprese. Per il relatore di maggioranza Mauro Maier, di Fratelli d'Italia, è un testo che punta a rafforzare i servizi, sostenere la crescita, promuovere la coesione sociale e garantire attenzione ai territori più fragili. Con questa amministrazione, secondo Di Bert della lista Fedriga, il Friuli Venezia Giulia ha dimostrato di essere un territorio capace di trasformare le risorse in sviluppo e crescita, mentre Cabibbo, per Forza Italia, parla di una regione dove si gode di un alto livello di qualità della vita senza lasciare indietro le persone e le famiglie in difficoltà. Dalle opposizioni il PD ha annunciato la presentazione di oltre 200 emendamenti, cioè proposte di modifica al testo della finanziaria. Vanno dall'istituzione di un fondo regionale per il clima ad un potenziamento dei servizi per la prima infanzia, mentre sulla sanità il PD propone emendamenti che riguardano i medici di medicina generale, le liste di attesa e il costo delle cure. Da Bullien, del Patto per l'Autonomia, in arrivo la proposta di una misura straordinaria per le persone che hanno perso il proprio veicolo a causa dell'alluvione di novembre. Da Onsel, di Open Sinistra FVG, proposte di modifica che vanno dalla rimodulazione dell'addizionale IRPEF a favore dei redditi più bassi a contributi per le microimprese. Tra le modifiche proposte infine da Capozzi, del Movimento 5 Stelle, il sostegno ai comuni per assicurare alle persone fragili un riparo contro il freddo. Andrea Verdane, GR Friuli Venezia Giulia. La Orion, azienda triestina specializzata nella produzione di valvole industriali e per il settore petrolifero, ha costruito la più grande valvola al mondo in ambito petrolifero e potrebbe entrare nel Guinness mondiale dei primati. La valvola in questione pesa 120 tonnellate e ha un diametro di 114 pollici, cioè quasi 14 metri, e sarà presentata in via ufficiale giovedì davanti a 500 ospiti, tra cui il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e i rappresentanti delle aziende committenti della valvola, cioè la Saudi Aramco e la Hyundai. Sarà anche presente un giudice del Guinness Mondiale dei Primati per verificare e certificare la valvola di tipo wedge gate più grande mai costruita, superando il precedente primato di 108 pollici. Dopo la certificazione del record, la valvola nei prossimi mesi verrà spedita via mare con una nave specializzata verso l'Arabia Saudita, con installazione prevista nel 2026. Per Luca Farina, presidente della Orion, il Guinness dei primati mondiale è un riconoscimento che appartiene ai nostri dipendenti, ai nostri partner e al territorio che ci ha sostenuto in quest'anno in cui celebriamo i 75 anni di attività. Questo record simboleggia il nostro impegno verso l'innovazione e l'eccellenza, ha concluso Farina. L'amministrazione comunale di Pordenone ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione di Piazza del Popolo e delle aree limitrofe, un intervento strategico che riorganizza uno dei luoghi più frequentati della città. L'intervento, dal valore di 2,5 milioni, è finanziato dalla Regione. Il progetto prevede la riorganizzazione del parcheggio, la redistribuzione degli stalli e una nuova pavimentazione in porfido. Sarà mantenuta l'area di pertinenza della prefettura e la relativa cintura di sicurezza. Le fasce laterali su via Colombo e via Marconi resteranno a disposizione della prefettura e verranno delimitate da arredi e fioriere che creeranno un filtro definito. Una siepe sempreverde circonderà la piazza. Il nuovo assetto prevede circa 100 posti auto, mantenendo la funzione della piazza come parcheggio, ma integrandola con una visione più ampia di spazio pubblico qualificato. Il progetto coinvolge anche l'asse che collega la prefettura con i giardini del centro studi e piazza Maestri del Lavoro. Sono previsti la riqualificazione dei marciapiedi, interventi di moderazione del traffico, il miglioramento dei vialetti del giardino e una pista ciclabile. La fontana storica, tutelata dalla soprintendenza, sarà oggetto di un restauro specifico. L'escalation geopolitica non risparmia quasi quotidianamente la minaccia al ricorso di armi nucleari, armi che potrebbero avere tra i bersagli strategici le basi in cui altre armi sono custodite. La tavola per la pace del Friuli Venezia Giulia, da decenni impegnata a scuotere le coscienze pacifiste, tra i firmatari delle denunce presentate alle procure di Brescia e Pordenone per accertare la presenza di ordigni militari nelle basi militari statunitensi di Ghedi e di Aviano. Oggi ha anche organizzato un convegno sulla denuclearizzazione del Mediterraneo e del Golfo di Trieste. Ne abbiamo parlato con il portavoce Alessandro Capuzzo. La nostra denuncia fa parte dell'attivismo internazionale sul nucleare militare. Al momento Brescia l'ha, possiamo anticiparlo, già archiviata. Stiamo vagliando la possibilità di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani. A Pordenone invece risulta a ruolo. In caso di respingimento sporgeremo una sacrosanta protesta, ma i nostri intenti rimangono l'informazione verso i cittadini sul pericolo radioattivo a Ghedi e Aviano, specie in questi tempi di guerra, e possibilmente la messa al bando delle bombe aperta come possibilità appunto dal trattato di proibizione delle armi nucleari che le Nazioni Unite hanno approvato e che è in vigore. Al convegno che avete organizzato a Pordenone partecipano anche tanti fisici. Sì, c'è il molto noto Carlo Rovelli che interverrà con l'argomento della crescente debolezza della deterrenza nucleare. Questo è il titolo del suo intervento. Ma c'è anche Flavio Del Santo, che è un altro fisico che lavora fra la Svizzera e Vienna, che parlerà della denuclearizzazione nel Medio Oriente, perché c'è una campagna internazionale in corso e c'è una conferenza che le Nazioni Unite stanno portando avanti da decenni ormai per la denuclearizzazione del Medio Oriente, ma che non va né avanti né indietro, per le resistenze di Israele e per tutta la partita relativa al nucleare iraniano. Ma anche la denuclearizzazione del Mediterraneo è ben lontana. Certo, c'è stato anche lì da decenni ormai un inizio con il processo cosiddetto di Barcellona, che poi si è arenato praticamente, Noi portiamo avanti qualche proposta in questo senso, per esempio quella della denuclearizzazione del Golfo Internazionale di Trieste. Molestava i clienti in un negozio a Rivignano. All'arrivo dei carabinieri, l'uomo di 41 anni del posto non si è calmato, anzi ha opposto forte resistenza, colpendo con un pugno un carabiniere e ferendolo in modo non grave. L'uomo, finito ai domiciliari a causa delle ripetute violazioni alle misure cautelari, è stato portato nella casa circondariale di Udine su disposizione della procura. Il comune di Monfalcone ha provveduto, attraverso la polizia locale, ad effettuare nelle scorse settimane controlli capillari in tutte le sale gioco presenti in città e in tutti i pubblici esercizi dotati di apparecchi di intrattenimento. Le verifiche hanno coinvolto 8 sale giochi, 21 pubblici esercizi e 4 rivendite di tabacchi sono emerse, 26 violazioni amministrative per un totale di 6.300 euro di sanzioni, di cui 5 per mancata comunicazione degli orari di apertura degli apparecchi, 16 per violazione degli orari di apertura stabiliti dall'ordinanza sindacale e 5 per oscuramento delle vetrine nei locali dove sono installati gli apparecchi da gioco in violazione al divieto. In piazza Garibaldi, la piazza crogiolo delle etnie che vivono a Trieste, caratteristica per la stele mariana, si sta concludendo in questi minuti la recita dell'Angelus presieduta dal vescovo Monsignor Trevisi per il tradizionale omaggio dell'infiorata. L'Angelus è stato preceduto dalla recita del Rosario. In occasione della solennità dell'Immacolata Concezione, la chiesa udinese celebrerà i 25 anni dell'ordinazione episcopale di Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, vescovo che l'ha guidata fino al 2024. In programma una santa messa di ringraziamento presieduta da Mazzoccato in cattedrale alle 17. Altra iniziativa, il giubileo dei catechisti, pomeriggio di spiritualità dedicato a chi suscita e alimenta la fede nelle nuove generazioni per loro. Il ritrovo alle 15.30 nel santuario giubilare della Beata Vergine delle Grazie in piazza Primo Maggio, dopo una meditazione guidata dall'arcivescovo Lam. Una processione si dirigerà al battistero della cattedrale dove i catechisti rinnoveranno le promesse battesimali. A Lussari in 2 giorni sulla Cavinovia sono salite in oltre 5.000, anche se si scia solo nella parte alta del comprensorio. Un ponte dell'Immacolata baciato dal bel tempo ha favorito l'afflusso sul monte Lussari. Qui a quota 1790 metri in 5.000 sabato e domenica sono saliti sulla Cabinovia per sciare o semplicemente fare una camminata nel borgo, anche solo per una foto da condividere con gli amici. Questo è uno dei luoghi più instagrammabili della regione, per usare un neologismo ormai diffuso. Sciatori ovviamente tutti con il caschetto sulla testa, da quest'anno obbligatorio, aperte qui le parti più alte delle piste anche grazie all'innovamento artificiale sulla Deep Ramper, inoltre è stata rinnovata l'illuminazione notturna. Questo è uno dei 5 comprensori regionali già operativi, dal prossimo fine settimana si aggiungerà a Sella Nevea. Anche per il Tarvisiano si apre dunque la stagione invernale inaugurata dal passaggio dei tradizionali Krampus in paese, stagione che vedrà dopo molti anni il ritorno della Coppa del Mondo di sci femminile. Un buon afflusso in questo ponte, si diceva, oggi abbiamo visto molta gente, visitatori in arrivo dall'estero o da fuori regione oppure residenti in Friuli Venezia Giulia che hanno scelto il Lussari per questo 8 dicembre. Il fenomeno dell'immersione termica rende peraltro piacevole stare all'aperto, le temperature quassù sono più gradevoli che a Fondovalle e molti hanno scelto di mangiare e bere all'esterno dei locali. Fa così caldo relativamente, siamo attorno agli 8 gradi che la neve sui tetti suggestivi delle case del borgo di Monte Lussari si sta lentamente sciogliendo. La speranza di molti è che l'inverno, quello vero, arrivi presto. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A Villa Manini invece è in corso la manifestazione Lo Scrigno del Doge. Ascoltare le note di un organo meccanico a schede forate del 1820 mentre accanto ti passa una carrozza trainata dai cavalli Mirò e Quadrifoglio in una Villa Manin baciata dal sole. Anche questo è Lo Scrigno del Doge. Lucien Zinutti, direttore artistico. Siamo fortunati col tempo, veramente una giornata stupenda. Meglio di ogni aspettativa. Sarà un'edizione da ricordare, la quinta quest'anno. mobili, pitture, maioliche, tappeti, gioielli, oggetti d'arredamento, tutto rigorosamente d'antiquariato. Hai già puntato qualcosina? Ho puntato, sì, però vedo che comunque molti, diciamo, comprano subito, quindi bisogna anche in realtà muoversi, diciamo, presto. Che cosa ha comprato? Abbiamo preso un dipinto, un fiammingo, a un ottimo prezzo. Passeggiando tra le storiche esedre, capita di imbattersi in un enorme boccale di birra donato a Primo Carnera in ricordo di un match di box in Brasile nel 1935. Ma non sempre si è così ambiziosi, soprattutto se si tratta di qualcosa da donare ad amici o parenti. Regali di Natale? Anche. Qualcosina di natalizio sarebbe carino. Non mancano pizzi, vecchi ricami e merletti d'epoca. Ci sono giovani comunque ancora interessati, cioè anche interessati a questo, insomma. Si va avanti fino all'imbrunire, con la possibilità, tra un acquisto e l'altro, di visitare la mostra Confini, da Gauguin a Hopper. Lo scrigno del Doge tornerà di nuovo il giorno dell'Epifania. Codroipo, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono le 12.45, passiamo al meteo, il cielo da sereno poco nuvoloso in pianura e sulla costa, da variabile a nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 13 gradi, a Gorizia 12,5, Udine 12, Pordenone 11, in area montana Forni di Sopra e Piancavallo 9 gradi e 5 decimi, Tolmezzo 8 gradi e 5 decimi, Tarvisio 7, Sappada 2 gradi. In quota sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 8, sulla costa a Grado 12 gradi, a Lignano 10,5 gradi. Le previsioni: domani cielo in prevalenza sereno al più poco nuvoloso, al mattino marcate inversioni termiche, nei fondovalle in serata possibile qualche nebbia sulle zone di bassa pianura e coste più vicine al Veneto. Domani è l'ultimo giorno per effettuare il pagamento della rata della rottamazione quater, scaduta il 30 novembre. L'Agenzia delle Entrate ritiene tempestivi i versamenti effettuati entro domani, 9 dicembre, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti qualora i termini coincidano con giorni festivi. In caso di mancato pagamento, effettuato dunque oltre il termine ultimo oppure per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare la decima rata. È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat abilitati con PagoPA o sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione. L'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui lavoriamo, ma sta dando vita anche a professioni completamente nuove. Il cambiamento più profondo riguarda la specializzazione delle competenze, fattore che inciderà sempre più anche sulle piccole e medie imprese non sempre preparate a questa rivoluzione. L'intelligenza artificiale sta già rivoluzionando le nostre vite ed è destinata a rivoluzionarle ancor di più nell'immediato futuro, a iniziare dai nuovi mestieri che vengono di conseguenza creati, ma il cambiamento più profondo riguarderà la specializzazione delle competenze. L'analisi è di Teresa Scantamburlo, che ha vinto la prima cattedra italiana in intelligenza artificiale responsabile e sostenibile all'Università di Trieste. Il suo compito è quello di insegnare agli algoritmi ad essere etici, un lavoro che fino a 5 anni fa non esisteva. E se secondo il World Economic Forum l'intelligenza artificiale eliminerà 92 milioni di posti di lavoro entro il 2030, ne creerà 170 milioni di nuovi. Un ruolo che credo potrà aprirsi, diciamo, nel prossimo futuro sarà quello di AI manager o AI supervisor, cioè dei soggetti che all'interno delle aziende avranno la responsabilità di sorvegliare, di monitorare questi sistemi, di capire l'output, di capire quando utilizzarlo, quando è opportuno anche non utilizzarlo, e faranno un po' da ponte tra gli agenti artificiali e i soggetti umani. Altri lavori, figure professionali che potranno aprirsi sono i content manager o gli architetti della conoscenza, cioè coloro che dovranno capire quali tipi di dati e come questi dati dovranno essere organizzati per addestrare questi sistemi di intelligenza artificiale, ad esempio all'interno delle aziende. A proposito di aziende, sono pronte per questa rivoluzione? questa innovazione può amplificare una sorta di digital divide, quindi un gap tra chi ha le risorse già internamente per poter sviluppare non solo queste tecnologie e poterle adottare, ma anche per sviluppare le competenze necessarie per poter trarne beneficio, e chi invece magari non hanno al proprio interno le risorse per poter introdurre in maniera efficace queste tecnologie. Quindi questo senz'altro è un rischio, e per questo è importante fare rete per poter condividere competenze e risorse anche tecnologiche. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il calcio in Serie A, l'Udinese ospita il Friuli alle 18 il Genoa, il giornale radio andrà in onda nell'intervallo della partita, mentre la Serie C, la Trieste, gioca alle 15 in trasferta sul campo del Giana Erminio. Passiamo agli spettacoli. L'orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia, diretta dal maestro Romolo Gessi, si esibirà nel tradizionale concerto dell'Immacolata, accompagnata dalla violoncellista Marianna Sinagra. In programma capolavori barocchi, classici e moderni, con un omaggio agli anniversari di tre importanti compositori. C'è il 250esimo anno dalla scomparsa di Giovanni Battista Sammartini, il 50esimo da quello di Leroy Anderson e il 5° da quella di Ennio Morricone. Appuntamento a Muggia, al Teatro Verdi, alle 17.30, ingresso gratuito, offerta libera. Echi di pace, il concerto gratuito proposto dall'orchestra Tiepolo Barocca in scalette e composizioni di Bach, Telemann, Bieber e Vivaldi, che saranno eseguite con strumenti storici dai timbri sonori vicini a quelli che i compositori avevano immaginato a Pordenone in Duomo alle 20.45. A Cormons la mostra Limina, allestita al Museo Civico del Territorio e dedicata ai confini, è anche l'occasione per sostenere uno degli artisti coinvolti, lo scultore Stefano Comelli di Versa, il cui studio è stato completamente distrutto dall'alluvione. Per lui è stata avviata una campagna di crowdfunding promossa dalla figlia con l'obiettivo di permettergli di ricostruire la propria attività, erede di una radicata tradizione familiare. Il progetto artistico, curato da Ivan Cricco in collaborazione con l'associazione Qui Altrove, unisce molteplici linguaggi dell'arte contemporanea accanto a nomi di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Nicola Verlato, Ross Lovergrove e Roberto Kusterle, Simone Pellegrini, Michele Spanghero, Maria Elisabetta Novello, Giorgio Pignotti e Manuela Sedmak. Trovano spazio artisti emergenti e autori attivi in ambiti non convenzionali, capaci di coniugare antiche tecniche scultore e orafe con nuove forme espressive. Segnaliamo ora altri appuntamenti culturali di oggi. Per gli spettacoli, Il Campiello di Carlo Goldoni, adattamento in due atti, regia di Maria Rosa Maniscalco, sarà rappresentato dalla compagnia teatrale Soggetti Smarriti di Treviso per la rassegna Una luce sempre accesa e per il 31esimo Festival Internazionale Ave Ninchi a Trieste, al magazzino 26 del Porto Vecchio, alle 17.30, ingresso libero. Al Teatro Miela lo spettacolo Una cornice di mondanità dei Pupkin Cabaret alle 18. La compagnia Orto Teatro ha allestito la farsa per burattini L'Apri Sogni a Kions all'oratorio alle 15.30, dove allo stesso orario sarà accessibile il laboratorio di burattini da dito in punta di dita, ingresso gratuito. La nuova orchestra Ferruccio Busoni di Trieste, diretta dal maestro Massimo Belli, con Giada Visentina al violino e Martina Minussi al fagotto, saranno i protagonisti del concerto Vivaldi per tutte le stagioni a Manzano, a Villa Romano, alle 17. Il gruppo corale degli Spiritual Ensemble si esibirà in un concerto di musica gospel a Martignacco in Duomo alle 17, al termine l'accensione ufficiale delle illuminazioni natalizie in piazza Vittorio Veneto. Il coro polifonico di Ruda sarà in concerto a Prato Carnico nella chiesa di San Canciano Martire alle 18. Musiche di Mascagni, Beethoven e Rodrigo per il concerto del duo composto dalla soprano Elena Sanaze e dal chitarrista Giovanni Noventa, in calendario per la 30esima edizione del Pordenone Music Festival a Barcis nella terrazza di Piazzale Centi alle 16, ingresso libero. E questo è tutto per il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Zeno Dubanda. Tutti noi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.